In Atene, l'anno 399 a.C., Socrate fu processato per le accuse di impietà e corruzione dei giovani. Ricusò qualunque assistenza di esperti e assunse la propria difesa di persona. Io mi domandavo, ateniesi, che cosa pensavate delle parole dei miei accusatori? Non lo immagino. Mentre parlavano ero come perso. Mi pareva di non sapere più né chi né dove fossi. Ammirato di come parlavano, ma anche sbalordito, amici, di non avere udito neanche una cosa vera. Silenzio. Sono rimasto di sasso poi quando hanno detto, vi hanno detto, di stare in guardia da me. Da me. Di non lasciarvi turlupinare. Da me, da questo serpente velenoso che usa l'arte di ragionare come un morso velenoso a tradimento. Ah. Cari amici, diciamo subito che intanto a voi toccherà udirmi all'opera, purtroppo, e a loro toccherà vergognarsi di questa bugia, perché se c'è una cosa in cui sono totalmente inesperto è quella, è l'arte di persuadere con le parole. Io non so parlare se non a modo mio, ragionando intorno alle cose, ma che io sia pericoloso, temibile. Del resto giudicherete voi, a meno che non abbiano voluto dire i miei accusatori che qualcuno è sempre temibile quando dice la verità. È questo che volevate dire? Allora io so parlare. Certo non al modo nostro, ornato, appassionato e senza dire una briciola di verità. No, io tutto quello che vi dirò potete stare certi che è vero. Sì, è inutile che rumoreggiate. Quello che vi ho detto è, voi udirete da me un discorso non fiorito di belle citazioni, belle frasi, no, udirete una cosa non preparata, non studiata, improvvisata, così, con le prime parole che mi vengono alla bocca. E perché questo? Perché io sono certo che quello che dirò è vero, di che altro ho bisogno? Ho bisogno di altro. Sì, voi sì, ma io no. No, e poi ho 70 anni suonati, amici. Non è neanche decoroso che io alla mia età mi atteggi e mi metti a sculettare come i giovinetti che si diplomano nell'arte oratoria. Voi vi prego una... Vi prego solo di una cosa, che non vi meravigliate. Se mi udirete parlare al mio solito modo, come mi avete sentito tante volte, sì, anche in piazza, presso i banchi dei prestasoldi o nel ginnasio dove aiuto chi di voi lo desidera con il mio contraddittorio a ragionare. No, non vi meravigliate, amici. Questa è la verità. È la prima volta a 70 anni che entro in un tribunale. Non so come si parla in questi luoghi. Fate conto che io sia uno straniero che inciampi in usi e in una lingua che non sono suoi. Voi lo perdonereste. E anch'io vi prego di essere perdonato se parlerò come parlo. Quello che dovete guardare è solo questo. Se dico o non dico la verità, questo credo è il dovere dei giudici, come il dovere di chi parla è dire la verità. Allora cominciamo. Io penserei di cominciare dalle accuse più antiche, quelle dei miei primi accusatori. Quanti anni sono ateniesi? Sono tanti, che si ride, si maligna, si farnetica. Quanti anni sono ateniesi? Tanti, tanti, tanti. E io ho lasciato dire, sì, è stato una leggerezza, ho lasciato dire. E ora mi accorgo che avrei dovuto averne paura, anzi oggi ne ho molta paura, molta più che di Anito e dei suoi amici. No, non avere paura, non ti offendere, Anito, conti anche tu per me. Ma se tu conti per me è perché le tue accuse sfruttano la fama, questa fama non del tutto seria, di un Socrate che qualcuno definisce un sofista, un furbo, abile nel maneggiare le opposte ragioni di un discorso e nel far prevalere quelle che avrebbero la peggio. Ma è proprio quello che io non sono, amici, e voi mi conoscete. È proprio quello che io non sono, un Socrate, secondo questa stessa fama, che indaga i movimenti delle stelle e la composizione della materia, che è quello che faceva Anassagora, no? Chi è più anziano se lo ricorda, 40 anni or sono, voi bandiste da questa città Anassagora con l'accusa di essere ateo, Non è così. E adesso non è la stessa cosa che Anito vuole significare di me? Come se indagare le stelle e la materia fosse l'equivalente di non credere negli dèi. Anito, non dici questo di me. E Meneto l'ha anche scritto nel suo atto di accusa. Socrate non crede negli dèi, perché se credesse negli dèi non indagherebbe la natura. Ma amici, ma questa è una tale banalità, è una tale stronzata, scusate il termine volgare, che da anni sentite ripetere da questa gente confusa che i miei ragionamenti forse non li ha nemmeno mai sentiti, che certamente da me non è stata persuasa. Cari amici, e qualcuno di loro, di questi lepidi individui, che si sono divertiti a calunniarmi, potrebbe essere anche qui tra voi, no? Non c'è nessuno? No? No? Non c'è nessuno? Amici cari, queste persone, io neanche so chi siano, davvero. Io, se mi diceste, ma chi sono? Tu li accusi di calunniarti, ma li conosci? No, no, non li conosco. Dici i loro nomi. Non li conosco, tranne di uno. È uno che è un autore di teatro. E tutti lo conoscete, lo amate. Chi è? Vedo il suo nome sulle bocche di molti di voi. È Aristofane, amici. In una sua commedia, molti, molti anni fa, si vedeva un tal Socrate appeso in alto dentro una cesta che nuotava come nell'aria e si vantava di muoversi tra le stelle e tra le nuvole soprattutto. Le nuvole, avete capito? Amici cari, ne ho riso anch'io, era un'immagine esilarante. Aristofane è un caro amico e le sue burle sono felici, ma basta prenderle per quello che non sono, col pungiglione dell'invidia, ed ecco che la storia di Feidippide, che si emancipa alla scuola di Socrate dalla soggezione a suo padre e lo bastona, ecco che rivela una minaccia per la stabilità della famiglia. Oh, amici cari, non è così, non è così. Parlando della natura, io non dirò che ho disprezzato, ma semplicemente dopo di allora non mi sono più occupato della natura delle stelle, della materia sotterranea, della vita vegetale e animale. Non so più nemmeno se ci sia ancora vivo ad Atene qualcuno che dopo Anassagora abbia continuato i suoi studi. E me detto vorrebbe che Fassilio. No, io semplicemente non ho potuto più continuare quelle ricerche da solo. E da quando parlo in pubblico, da quando voi mi avete sentito parlare, mi dica qualcuno se io ho mai trattato quelle materie, se mi sono mai occupato di quegli argomenti. E questo vi fa capire quanto siano vere anche le altre accuse. In realtà nulla di quello che hanno detto è vero. Come non è vero che io abbia mai preso del denaro per insegnare, per distribuire insegnamenti, saperi. Ma non che io ci veda niente di male, Se un uomo ha questa capacità di istruire esseri umani, non è mica una cosa da poco. Ma per esempio Gorgio Tarentini, il prodico di Ceo, Ippia di Elide, ma che male c'è che sia pagato? Questi maestri girano da città a città e i giovani ateniesi, che ad Atene potrebbero essere istruiti gratuitamente, corrono alla loro scuola, scelgono questi maestri e portano loro anche tanti soldi. E questi maestri ne ricavano tra i soldi anche una grande rinomanza. Ce n'è uno che è venuto da poco a stabilirsi ad Atene. E io l'ho saputo parlando qualche giorno fa con Callia, il figlio di Ipponico. Callia ha due figli, come voi sapete, e per i loro maestri ha speso più di tutti gli altri ateniesi messi insieme. E stavamo parlando di maestri. I loro figli adesso sono diventati grandi e io gli ho detto: Callia, se i tuoi figli fossero due puledri o due vitelli, tu ora vorresti per loro un maestro che li preparasse ai loro nuovi compiti, e se fossero dei cavalli vorresti un addestratore, un buttero, se fossero dei bovi vorresti un aratore, poiché sono uomini e sono anche cittadini di Atene, tu vorrai per loro un maestro che, oltre ad avere qualità di uomo, abbia qualità di cittadino, non è così? Cioè, sì. E tu conosci un tale uomo? Sì, dice, lo conosco. Sorpreso. E chi è? Si chiama Eveno. E di dov'è? Di Paro. E quanto vuole? 5.000. E io pensai che questo davvero era una brava persona, se avendo questa capacità di insegnare chiedeva solo 5.000 a un uomo che era disposto a dargli molto, ma molto di più. Io sarei orgoglioso di essere una tale persona. Amici, il guaio è che io purtroppo non so insegnare, amici, assolutamente. Ma allora dirà qualcuno di voi, ma cos'è che tu fai? Da dove nasce questa tua fama? Se tu non fai niente di diverso da quello che fanno tutti, come nascono tante voci, tante dicerie? Cari amici, quello che vi devo dire, ecco qua, no, mi dice questa persona, questo qualcuno, mi dice, dici tu che cosa fai di diverso dagli altri, noi non ti vogliamo giudicare se prima non ce lo dici tu, e io dico bravo, hai ragione, a questo qualcuno, che cosa ridete? Se devo dirvi la verità, a proposito di come è nata questa mia fama, io vi dirò qualcosa che mi sembrerà un po' alto e solenne, ma non mia è la parola, come direbbe Euripide, è il responso di un oracolo. Il responso lo dobbiamo a una persona che è degna di tutta la vostra stima, perché Cherefonte è un democratico, fu mandato in esilio dai 30, è ritornato clandestinamente con Trasibulo, ha combattuto a Munichie ed è una di quelle persone a cui questa città deve il ritorno di un governo democratico, ed è stato mio allievo. Allora, voi vedete che Cherefonte fu molto determinato sempre in tutto e volle esserlo anche a mio riguardo. Questa grande stima che aveva di Socrate volle che avessi una conferma inoppugnabile e si rivolse all'oracolo di Delfi. Voi vedete, rifletta chi mi accusa di essere ateo. Vi sto per parlare dell'oracolo del Dio. Cherefonte non è qui perché è morto, ma suo fratello è in testa dell'oracolo, chi lo può vedere, che cosa. Dunque, Cherefonte interrogò l'oracolo in questa forma. Se c'è qualcuno al mondo che sia più sapiente di Socrate, e l'oracolo rispose che no, che non c'è nessuno al mondo più sapiente di Socrate. Proprio così, proprio così. Quando mi fu riferita questa risposta, io rimasi senza parole. Che cosa avrà voluto dire il Dio, pensai, perché io certo non sono sapiente. Questo è un enigma, pensai, che deve essere decifrato, e per qualche tempo io me ne restai appartato, ero perplesso, incredulo, un po' intimidito. Il Dio, mi dicevo, tuttavia non può mentire, il Dio non mente, non sapevo che fare. Poi finalmente mi scossi da questa perplessità, da questa immobilità, e cercai di capire il significato dell'oracolo, e per fare questo io andai ad ascoltare un uomo che era ritenuto molto sapiente, era, non vi posso dire il nome, era un politico. Dopo averlo ascoltato io gli posi alcune domande, e pensavo, adesso potrò riferire all'oracolo che c'è al mondo un uomo molto più sapiente di Socrate. Ma non andò così. Quell'uomo, che tutti i presenti ritenevano molto sapiente, e certamente lo era ai propri occhi, interrogato da me, rimase confuso. Dette risposte reticenti o non dette risposte affatto. E io cercai contatto di renderlo consapevole che credeva di sapere cose che non sapeva, e così con questo mi attirai tutto il suo odio e quello dei suoi sostenitori. E così, allontanandomi da lì, io andavo riflettendo, oltretutto maltrattato, insultato, io andavo riflettendo che in fondo, in qualche modo, ero più sapiente io, in questo senso che lui presumeva di sapere cose che non sapeva, io sapevo di non saperle. E dopo di lui, per favore, dopo di lui, mi voglio continuare a raccontare, sto rispondendo alle vostre domande. Dopo di lui mi avvicinai ad un altro ritenuto ancora più sapiente di lui, un politico, il nome non ve lo dico, e se lo sapete, beh, tanto meglio. Andò esattamente tutto nello stesso modo, compreso l'odio che mi attirai da lui e dai suoi, ma non mi fermai, volli continuare. Io mi dicevo, ero stato preso da una specie di assillo, io devo spiegare il significato dell'oracolo e per questo interrogherò tutti coloro che in Atene fanno professione di essere sapienti. E così feci. E il risultato è stato che proprio quelli che facevano la maggior pompa di sapere ogni cosa, interrogati da me, dimostrarono di non sapere quasi nulla, e molti che non avevano alcuna fama, che nessuno conosceva, dimostrarono di essere molto più vicini alla sapienza di loro. Ma poiché vi devo continuare a raccontare di questa mia inchiesta, dopo i politici, ecco, io volli interrogare anche i poeti. Io mi dicevo, gli autori di questi meravigliosi versi, non erano solo i versi tragici, anche altri versi. Io pensavo, metteranno a nudo la mia ignoranza, sarà presa, per così dire, in castagna. E già pregustavo quello che avrei riferito all'oracolo, ma ancora una volta non andò così. Dopo aver ascoltato questi versi, io mi ero fermato su alcuni che mi interessavano di più e che sia i loro autori delle spiegazioni su che cosa avessero realmente voluto dire, speravo anche di imparare qualcosa. Ma ho scoperto, con molta meraviglia, anche un po' di imbarazzo, che molti dei presenti avevano di quei versi una intelligenza che i loro autori non avevano, e compresi così che i poeti non scrivevano per dare una forma a una visione di sapienza, no, scrivevano sotto l'impulso di una ispirazione, di un delirio, come i vaticinanti, i veggenti, e che scrivevano molte cose belle e importanti, ma senza capire che cosa scrivevano. E di nuovo allontanandomi, pensai che in fondo ero più sapiente io. Alla fine volli interrogare anche gli artisti e gli artigiani che lavorano diverse materie. Io delle loro arti non sapevo niente. Mi pareva che facessero dei discorsi interessanti, e poiché non sapevo nulla, volli anche imparare qualcosa di un po' di pittura. Mi pareva che facessero dei discorsi sapienti nelle loro arti, ma avevano lo stesso difetto, per così dire, dei poeti, che loro credevano, poiché erano molto bravi nelle loro arti, di sapere anche cose importanti che non sapevano affatto. La loro presunzione gettava un'ombra sulla loro sapienza. E così ecco che io ero rimasto solo e ancora avevo davanti l'enigma dell'oracolo. Io domandai a me stesso se per me sarebbe stato meglio restare così com'ero, ignorante di molte cose che altri sapevano, ma consapevole di questo, di non sapere la risposta alle domande che soprattutto mi interessavano, sapere che non le sapevo, oppure se era meglio per me diventare un sapiente come erano gli altri, sapere moltissime cose, ma perdere la coscienza piano piano di non sapere quelle cose che soprattutto contano e che non sapevo. E conclusi che per me era meglio restare così com'ero. Fu proprio questa ricerca, questa indagine, tutti questi interrogatori ateniesi che dette l'origine alla mia fama, di cui ora mi chiedete. Sì, mi hanno generato una quantità di odi e di calunnie, ma hanno anche generato la fama che io fossi sapiente. Questo avvenne perché alcune persone che assistevano alle mie dispute, vedendo che io svergognavo uomini ritenuti molto sapienti e che non sapevano rispondere alle mie domande, loro credevano che io avessi le risposte a quelle domande a cui loro non sapevano rispondere. Ma non era così. Solo il Dio conosce le risposte a quelle domande che soprattutto contano. E così io, di colpo, nella mia mente, compresi il significato dell'oracolo, la sapienza umana, cioè anche quella dell'uomo più sapiente, che non è Socrate, vale nulla. L'oracolo avrebbe potuto dire così: l'uomo più sapiente è quello che, come Socrate, sa che nulla vale il suo sapere. Ed io, dopo di allora, questo oracolo l'ho preso come un comando, mi vidi come scelto per fare proprio quello che io andavo facendo. E così continuai con una specie di assillo ad interrogare questo e quello, a chiedere cose che dimostravano di non sapere, e a questo punto io cercavo di rendermi consapevoli e di mettermi sulla strada della conoscenza di sé e degli altri, che porta alla sapienza. E per fare questo, amici ateniesi, per fare questo io non ho più fatto niente di meritevole, né per me né per la città, e mi sono ridotto loro in povertà. Rifletta chi mi accusa di non credere negli dèi. Io per rispondere all'oracolo di un dio mi sono fatto povero. Ma veniamo adesso ai giovani. E l'accusa mi accusa di corrompere i giovani. Allora, questi giovani, soprattutto alcuni giovani di famiglie con comodità di mezzi, presero molta passione a sentirmi parlare, soprattutto prendevano gusto quando vedevano che io, interrogando un uomo ritenuto molto sapiente, dimostravo che non lo era, e si misero a fare lo stesso, si misero ad imitarmi, andavano anche loro intorno di qua e di là, interrogavano questo e quello, e naturalmente trovarono una quantità di gente che si riteneva sapiente e non lo era affatto. E queste persone, che erano state interrogate da giovani che prendevano l'esempio da me, se la presero con me, invece che con se stessi, col nulla delle loro risposte. Con me se la presero e cominciarono a dire che Socrate corrompe i giovani, che Socrate è un pessimo soggetto. Ma se aveste chiesto loro come, in che modo, che cosa fa Socrate per corrompere i giovani, silenzio, non avrebbero risposto. Che cosa avrebbero potuto rispondere? Nulla, non sapevano. E messi nell'imbarazzo, ripeterono anche loro la solita tiritera che tutti i fessi del mondo hanno sempre ripetuto contro tutti i filosofi: Socrate specula sui misteri del cielo e di sottoterra, non crede negli dèi e ragiona in un modo capzioso, insegna ai giovani a far prevalere la ragione che perde su quella che dovrebbe vincere, cioè fa vincere chi ha torto su chi ha ragione, capito? Questo. Ma la realtà è che queste persone si presentavano come degne di rispetto ed erano state manifestate in tutta la loro pochezza. Questo non lo possono assolutamente perdonare, e così hanno cominciato sfacciatamente a mettere in giro questa e quella calunnia, e così è cominciato tutto, finché mi si avventano contro volendomi vedere morto. Questi tre che mi accusano qui: Meleto, Anito e Licone. Meleto in rappresentanza dei poeti che avrei offeso, Anito dei politici e degli artigiani, e Licone dei retori. E adesso ci vorrebbe davvero un miracolo, perché questa calunnia che va avanti da anni, che vi cova nel cuore da anni, io nel solo tempo di una clessidra riesca a estirparla. Naturalmente vorrei, sarebbe la cosa migliore per me e per voi, ma ne vedo tutte le difficoltà. In ogni caso vi ho detto la verità, non vi ho nascosto nulla, vi ho detto anche le cose che mi rendono odioso, e anzi quest'odio è la prova che è la verità. Diciamo che con le accuse antiche ho finito. Veniamo all'accusa per cui sono qui, l'accusa di Meleto e dei suoi due amici. Intanto, chi è Meleto? Io non lo conosco. Un uomo onesto che ama la patria, così vuole apparire. Allora vediamo qual è l'accusa di Meleto e degli altri due, che vorrebbero essere presi sul serio come degli accusatori di un nuovo genere. Vediamo cosa dice questo atto, vediamo. Socrate dice, Socrate corrompe i giovani. Ma guardate la novità, Socrate corrompe i giovani e insegna loro che non esistono gli dèi in cui crede la città, e cerca di introdurre delle divinità diverse. Allora vediamo Meleto, vediamo Meleto, una ad una le tue accuse. Allora, tu dici che Socrate ha la grave colpa di corrompere i giovani, e io dico che sei tu, Meleto, ad avere più di una colpa. Uno, di portare in tribunale con tanta leggerezza un uomo. Due, che mostri tanto zelo all'improvviso per un'attività di cui non ti sei occupato mai. Non è così? Che ridi, Meleto? È vero, te lo dimostri, rispondi alle mie domande invece di ridere. Allora, tu ritieni che sia molto importante, certo, che i giovani ateniesi vengano tirati su il meglio possibile. Allora, vediamo, tu che sai queste cose, chi li fa migliori? Come non lo sai, Meleto? Non lo sai, ma come tu? Che ti preoccupi dell'educazione dei giovani e che hai scoperto chi li corrompe e per questo mi porti in tribunale? Non lo sai, ma non fai una bella figura, mostri che è vero quello che dico io, che tu di questa attività non ne conosci un H, no? No, ma io sono contento di ricredermi, No, rispondi a questa domanda: chi li fa migliori? Le leggi, bravo! Buona risposta, le leggi. Ma non è questo, mio bravo uomo, che io ti avevo domandato. Io ti avevo chiesto chi, quali persone, a conoscenza certo delle leggi, rendano migliori i giovani. I giudici! Risposta esatta. I giudici, tu dici che tutti questi giudici che sono qui davanti a noi sono dei buoni educatori di giovani, tutti, rifletti, tutti, o qualcuno sì, qualcuno no, tutti, ma che meraviglia, ma allora ad Atene abbiamo una grande abbondanza di buoni educatori, e gli altri che assistono al processo senza diritto al voto, anche loro sono buoni educatori, sì, anche loro, anche. E i membri del consiglio, con tutti quegli scandali che sono venuti fuori, anche loro sono dei buoni educatori. Atene, sei sorprendente. Il popolo che vota nell'assemblea con il suo cattivo esempio, tutti quanti voti. Anche loro. Sono dei buoni educatori. Tutti allora. Questo tu dici. Meleto, tutti gli ateniesi sono dei buoni educatori, dei giovani, tranne uno che li corrompe. Io. Ma non è possibile. Ma com'è possibile? Sei sorprendente. Facciamo l'esempio dei cavalli. No? Tu credi possibile che tutti siano dei bravi addestratori di cavalli, tranne uno che li guasta? Ma non è piuttosto il contrario, che c'è uno, diciamo pochi, che si intendono di cavalli e li sanno addestrare bene. E tutti gli altri che se ne servono, non se ne intendono affatto e il più delle volte li guastano, non è così? Certo che è così, anche se tu dici di no. Certo che è così. Ma voglio chiederti anche altre cose, ho ancora tempo. Aspetta, rispondi. Tu credi che sia meglio per un uomo vivere con delle persone buone, oneste, o con delle canaglie? Perché le canaglie, se sono canaglie, faranno del male a quelli con cui vivono, e invece le persone buone faranno loro del bene, e rispondi, credi che qualcuno possa preferire ricevere del male da quelli con cui vive piuttosto che del bene? No, chiaramente no, nessuno preferisce avere del male. E allora dimmi, tu dici che involontariamente mi avvenga di corrompere questi giovani o che lo faccio di proposito? Di proposito lo faccio. Oh, ma sono uno sciacallo. Ma dunque Meleto, tu ritieni di essere tanto più saggio di me, tu che sei giovane, di me che sono vecchio, che tu sai che le canaglie faranno del male a coloro con cui vivono, e credi che io sia tanto cieco da non sapere che corrompendo questi giovani che mi seguono io ne faccio delle canaglie e le canaglie mi faranno del male, e questo lo farei di proposito? Ma non mi posso persuadere, Meleto, di questo. Andiamo, non mi posso persuadere. No, Meleto, no, io sono convinto di quello che dico. I giovani io non li corrompo affatto di mia volontà. E se mi accade di corromperli involontariamente, ma in questo caso la legge non vuole mica che io sia portato in tribunale, La legge vuole che chi compie una qualche colpa, commette una qualche colpa involontariamente, venga preso da parte, venga istruito su questa sua eventuale colpa, così che spontaneamente decida di non commetterla più. Tu Meleto, quando mi hai cercato per incontrarti con me ed istruirmi su questa mia colpa? Anzi, mi pare che tu mi abbia sempre evitato. Tu vedevi che io stavo corrompendo la migliore gioventù di Atene e non facevi nulla, nulla. E adesso mi porti qui, in tribunale, dove la legge vuole che si porti chi si vuole punire, non chi si vuole istruire, Non è la verità, Meleto, Non è la verità. Beh, andiamo avanti. Come tu dici che io corrompo questi giovani, Si legge nell'atto che hai scritto. Allora, dice la tua accusa, eccolo qua, Socrate insegna che non esistono gli dèi in cui crede la città, ma che esistano divinità diverse, nuove. Ora vediamo se tu dici che io insegno che esistano divinità, che esista una realtà divina. Tu stai dicendo che non sono ateo. Allora come fai a dire nello stesso atto di accusa che io sono un ateo che non crede negli dèi? Ma, dice Meleto, tu non credi negli dèi in cui crede la città. Tu, per esempio, dice Meleto, il sole e la luna insegni che non sono dèi. Il sole è una pietra infuocata e la luna è un altro pianeta come la Terra. Ma queste sono cose, lo ricorderete, chi è anziano, che insegnava Anassagora più di 40 anni fa. E per questo lo avete bandito da Atene, ed io l'ho difeso, sì signore, io l'ho difeso, come testimone, ero giovanissimo. Ho difeso la Sagora, il diritto di indagare la natura. E adesso Meleto mi vuole vincolare a questa eredità di Anassagora per dire che anch'io non credo negli dèi. Questo vuole dire, eh? Non è questo che vuoi dire, Meleto? Ma non dici allo stesso tempo che io insegno che c'è un Dio? Non dici questo? E allora non capisco, mi devi spiegare. Meleto, resto confuso. Cosa vuoi dire? Sei sorprendente. A meno che tu non voglia dire, tu non mi voglia mettere alla prova, ecco, diciamo, con una specie di enigma, di indovinello. Vediamo se Socrate si accorge che mi contraddico e lo prendo in giro, oppure se cadrà nel tranello e con lui tutti gli altri che stanno qui ad ascoltare. Ma se sì, proprio così, ti contraddici, Meleto, ti contraddici, te lo dimostro io. Meleto, ti contraddici, te lo dimostro, rispondi alle mie domande, non fate schiamazzi, signori giudici. È il mio diritto a parlare ora. Ho solo poco tempo. Silenzio. Allora dimmi questo, Meleto. Tu credi possibile che si creda nell'esistenza di vicende umane, ma che non si creda all'esistenza di uomini? Non rispondi. Facciamo l'esempio dei cavalli. Credi che si possa credere nell'esistenza dell'allevamento di cavalli, ma non nell'esistenza di cavalli? No, ancora non rispondi. O che possa esistere la musica per flauti, ma che non esistono i suonatori di flauto? Ma come non rispondi? Te lo dico io che è possibile. Voglio che tu però risponda a una cosa, è il mio diritto che tu risponda, è il mio tempo per parlare, la legge vuole che tu mi risponda. Signori giudici, allora, rispondi a questo, Meleto. Credi che sia possibile l'esistenza di una realtà divina, ma che non esista alcun Dio? Perché è questo. Non è possibile, grazie di avermi risposto, anche se ho dovuto impegnare la legge per questo, ho dovuto scomodare i giudici per questo. Dunque tu riconosci che io insegni che esista una realtà divina, vecchia o nuova, non è questo il punto. Tu riconosci che io insegno che esiste una realtà divina, lo hai scritto nell'atto che hai anche giurato. Ma, dice Meleto, Socrate ha parlato di un demone. Sì, l'ho chiamato così, uno spirito. Ma ho sempre detto che si tratta di un Dio che abita in me, ma anche in te, che abita in ogni uomo e che guida la coscienza di ognuno, giudicando ogni azione che facciamo secondo la coscienza del giusto. Allora, Meleto, non ti contraddici? Ma se non volevi provocarmi con un indovinello, ma che cosa significa questa tua accusa? Non stai in piedi, permetti? Oppure veramente non sapevi di che cosa potermi accusare in tribunale, amico mio. Va bene, basta con Meleto, basta, mi sono profuso anche troppo con lui. Allora, qualcuno mi potrebbe dire a questo punto, ma Socrate, oh Socrate, ma tu non ti vergogni di fare un'attività che ti rende così odioso, che rischi di perderci anche la vita? E io a questo qualcuno, premuroso per me, risponderei giustamente, credo, così: tu ti sbagli, amico. Se credi che un uomo, anche il più modesto, davanti ad un'azione da compiere, calcoli i rischi che corre, compresa la morte, e non pensi invece se questa azione sia giusta o non giusta, se sia degna di un uomo onesto o no. Non è questo, amici cari. Lasciamelo dire, amico, prendo l'occasione, parlo sempre a quel qualcuno. Se ci si dovesse vergognare, di tutte quelle azioni che comportano un rischio, sarebbero tutti sciocchi coloro che hanno corso dei rischi per quello in cui credevano? Sarebbero tutti sciocchi e si dovrebbero vergognare, quegli eroi che abbiamo studiato a scuola, quegli eroi che morirono a Troia, no, soprattutto Achille, figlio di una dea, che non si vergognò davanti al pericolo, anzi, lo colse tranquillamente, con noncuranza, alla madre che era una dea, che lo vedeva così determinato a uccidere Ettore, e gli ricordò, vediamo se mi ricordo: oh figlio mio, se tu per vendicare l'amico Patroclo, tu Ettore uccidi, già segue pronto al suo il tuo destino. Achille non ebbe paura del destino a cui andava incontro. Che io muoia pure, disse, avendo vendicato il mio amico su chi deve morire, e io non resti come oggetto di scherno lungo le navi ricurve sul Lido, come inutile peso della terra. Sì, amici, è proprio così. Nel posto che ci è stato assegnato, o che ci siamo scelti da noi ritenendolo il più adatto, o che ci ha assegnato chi comanda, noi dobbiamo restare senza fare calcolo né della morte né di altri pericoli, più che per l'onore. E io adesso, amici, farei un'azione veramente indegna se per paura della morte io non obbedissi all'oracolo. Veramente sarebbe una vergogna. Sarebbe una vergogna. Allora sì, sarebbe giusto portarmi in tribunale come un empio che non crede. Perché per paura della morte avrai disobbedito a un Dio. E avrai creduto di essere sapiente senza esserlo. E infatti, che cos'è avere paura della morte se non credere di essere sapiente e non esserlo? La morte che cos'è? Nessuno sa cos'è la morte, se non sia per caso, per l'essere umano, perfino il maggiore dei beni. Ma tutti la temono e la fuggono, dando per certo, dando per dimostrato che sia il maggiore dei mali. Non è questa ignoranza? Non è questa la più vergognosa ignoranza? Cari amici, io ecco, in questo credo di essere diverso dalla maggior parte di voi. Sì, quando dico che sono più sapiente di qualcuno, io intendo in questo senso, che non sapendo nulla di che cosa accade all'uomo dopo la morte, però so e dico di non saperlo. E invece so che è male disobbedire a un comando del Dio. E per fare un male, non sia mai che io tema e fugga una cosa che potrebbe essere un bene. Perciò, anche se voi, cari amici, mi assolveste, senza dare ascolto alle sciocchezze di Anito che dice: oh, bisogna o Socrate non portarlo affatto in tribunale, oppure una volta che qualcuno ce l'ha portato è necessario condannarlo a morte, perché assolto Socrate i vostri figli continueranno a seguire i suoi insegnamenti e saranno tutti corrotti. Se anche voi diceste: noi non ascoltiamo Anito e ti rimettiamo in libertà, ma a questa condizione, che tu smetta di insegnare quello che insegni. Senti, ci ritroviamo, ti mettiamo a morte. Io risponderei: cari miei ateniesi, io vi sono obbligato e vi voglio bene, ma prima che a voi io devo obbedire a Dio, e perciò finché avrò vita io non cesserò di esercitare la mia testimonianza di filosofo, imparando a conoscere me stesso e gli altri, a conoscere e praticare la virtù dell'anima e a esortare chiunque incontri di voi al mio solito modo. Gli direi, diciamo, o tu che sei il migliore degli uomini e sei anche cittadino di Atene, una città famosa nel mondo per la sua intelligenza, ma non ti vergogni di essere avido solo di ricchezze, di inseguire solo fama e onori, e della tua anima, di sviluppare le sue virtù, di migliorarla con la ricerca della verità. Tu non ti curi affatto. E se tu, per togliermi ti ritorno, faccio l'esempio, mi dicessi: oh Socrate, non te ne incaricare, che all'anima mia ci penso io. Io mica ti lascerei andare così facilmente, neanche io me ne andrei. Io ti vorrò interrogare, mettere alla prova, e se mi sarà chiaro che pensare alla tua anima, come tu dici, tu non sai nemmeno che cosa sia, io ti svergognerò, ti mostrerò che nulla sai di ciò che conta nella vita e sei solo assillato da cose che non contano, e non avrò, non mi tratterrò da, mai. Io andrò intorno ad incontrare chiunque di voi, a esortarlo, ricchi e poveri, giovani e vecchi, ateniesi e stranieri, ma più voi, cittadini ateniesi, io vi sento più vicini, perché anch'io sono stato tirato su come voi da cittadini di Atene, e ho un comando del Dio che mi spinge, che è rivolto a me, sì, ma anche a voi. Certamente, se io obbedisco a quest'ordine del Dio, voi ne avrete un grande vantaggio. Certo, perché io, andando intorno con questo assillo, non farei che istruire voi, insistendo sul fatto che non vi curiate del corpo e delle ricchezze più che della vostra anima, di conoscerla, svilupparla, renderla migliore. Cari amici, è così. Io non farei altro che questo. E le virtù non nascono nelle ricchezze. Le virtù non nascono nella comodità, nelle ricchezze. No, anzi, il contrario. È dalle virtù dell'anima che nasce tutto ciò che può arricchire l'uomo, non solo il singolo ma anche lo Stato. E ascoltare questi miei discorsi, se per i giovani fosse una fonte di corruzione, io me ne dorrei moltissimo, sarebbe una grande disgrazia. Ma è questo che io insegno. Sì, è questo che io insegno. Chi dice che io insegni altro dice una bugia. In Atene. No. Non mi appello a voi atenesi, non fate schiamazzi. No. Anzi, voi, qualunque cosa io dica, mi dovete ascoltare con attenzione. Sì, perché vi gioverà? Perché vi gioverà? Se voi metterete a morte me, sarà con più male vostro che mio. A me che mi potrete fare? Me ne guanito, che mi vorreste fare? Che male mi vorreste fare? Nemmeno potreste. Com'è possibile infatti che la creatura che striscia faccia del male alla creatura che vola? Perché io volo, no Aristofane, non volo io tra le nuvole. Che mi potete fare? Mandarmi a morte? In esilio? Privarmi dei diritti civili? Tutti mali grandissimi per voi. Sì, per voi, ma non per me. Io credo che sia un male molto maggiore quello che state facendo voi adesso qui, cercando di far condannare a morte un innocente. E se io mi difendo, ateniesi, lo faccio non nel mio interesse, come qualcuno crede, ma nel vostro. Sì, se voi, mandandomi a morte, offendeste il Dio, ma sarebbe una cosa gravissima per voi. Il Dio mi manda a voi con un comando, oltre che con un dono. Sì, se voi mi metteste a morte, voi non troverete facilmente un altro che Dio metta ai fianchi della città come un tafano. Sì, che non mi offende il paragone irriverente, un tafano. Sì, ai fianchi di un cavallo grande e nobile, ma che abbia un po' tardo, che abbia bisogno di essere un po' pungolato. E questo è quello che io faccio. Come un tafano io vado attorno a punzecchiare, a stimolare, questo e quello, e non mi do tregua. Voi siete da me infastiditi, credo, come qualcuno che abbia sonno e si stia per addormentare, cerchi di addormentarsi, ma qualcosa che ronza, lo mantiene sveglio, allora lui colpisce alla cieca. Così vorrebbe che faceste anito con me. Ma quando io sarò morto, voi continuerete a dormire per tutto il resto della vostra vita, finché il Dio non vi manderà un altro al posto mio. Sì. E che sia proprio io quello che il Dio vi ha mandato, mi appare chiaro anche da questo, che non si vede umana ragione per cui io per tanti anni non abbia curato i miei propri interessi e mi sia interessato solo dei vostri, sì. Seguendovi ad uno come un padre o un fratello maggiore. Se questo mi avesse procurato una qualche entrata, ma anche da poche persone, ma ci sarebbe una ragione. Ma nemmeno i miei accusatori, che mi hanno caricato sfacciatamente di ogni sorta di colpe, hanno osato accusarmi di questo, vi hanno portato un solo testimone che io una sola volta abbia preso del denaro, e uno inoppugnabile ve lo posso portare io, eccolo qua, la mia povertà. Ho sentito qualcuno dire che Socrate conduce i suoi esami e le sue ricerche da privato, ma che pubblicamente davanti al popolo gli manca il coraggio di parlare. Ora io gli rispondo quello che ho detto tante volte. Io ascolto dentro di me come la voce di un Dio. Tutti la potreste ascoltare, eh? Lo stesso Dio c'è dentro ognuno di voi, ma io lo ascolto da quando ero bambino. E questa voce è qualcosa che mi ostacola. Mi ostacola. Ogni qualvolta io sto per fare qualcosa che il Dio non approva, mi blocca, non mi lascia proseguire. E questa voce ora mi ha sempre vietato di occuparmi di politica, sempre. E ha fatto bene, perché voi ateniesi lo sapete, viviamo in tempi feroci, eh? E se io con la mia schiettezza, mi fossi mescolato a contese politiche, mi fossi esposto, sarei morto da un pezzo e non avrei fatto niente di utile né a me né a voi. Giusto, lo faccia come privato, senza confondere questo impegno con quello che è l'interesse di fazioni, di partiti che hanno di mira il potere dello Stato. Ma io non sarei mai giunto all'età che ho, ateniesi, se mi fossi mescolato alle lotte politiche. Nessuno al mondo sarebbe sopravvissuto se un uomo giusto avesse difeso come giusto le cause giuste. Nessuno poteva sopravvivere. E io vi dico che non sono mai venuto a nessun compromesso con nessuno contro la giustizia, nemmeno con quegli uomini che i miei accusatori hanno nominato, si tratta di uomini eminenti, di vostri governanti, e li hanno nominati come miei discepoli. Uno in particolare, certo, uno è quello che fa il caso, Crizia, lo sapete tutti, è vero, io ebbi con Crizia una certa familiarità, con lui e con la sua famiglia, certo. Ed è anche vero che Crizia è diventato il capo del governo dei 30 che si è dimostrato corrotto e sanguinario, certo. Ma io non sono maestro di nessuno a quel modo. Io non allontano nessuno che voglia sentirmi parlare quando confuto e istruisco qualcuno. No, io non allontano nessuno. Non è vero che insegno a chi mi paga e a chi non mi dà soldi volto le spalle, anzi, io voglio che sia consentito a tutti, ricchi e poveri, di farmi delle domande, a stare a sentire quello che io rispondo, a darmi alla loro volta le loro risposte. E se tra questa gente che dialoga con me qualcuno si rivela onesto e qualcuno no, ma la causa non può essere rintracciata in me. Perché io non impartisco saperi, non predico azioni da compiere. Io lascio chi mi ascolta libero. Voglio che si incammini verso la sapienza. Se poi va per un'altra strada, è colpa mia. Ateniesi. No. Ma come allora mi dite che ci sono delle persone e sono particolarmente attaccati al tuo insegnamento. Ma non sarà che tu dai degli insegnamenti in privato? Cose che nessun altro in nessun altro luogo ha mai sentito? Come sarebbe a dire che tu dai un insegnamento segreto ad alcune persone che di proposito tu corrompi? Questo circola. Che cosa fanno quelle persone che si stringono intorno a te e ti stanno ad ascoltare per delle ore intere? Cos'è che dici a queste persone? Io ve l'ho detto tante volte, Atenisi. Io interrogo questo e quello, e specialmente degli uomini che hanno fama di essere sapienti, e sentirmi rivelare che non lo sono può essere molto godibile. Queste persone si divertono, ma chi dica che io corrompo i giovani, che ne ho corrotti nel passato? Ma com'è che nessuna di queste persone ora, fatta veglia, se si fosse reso conto che quando era ragazzo io con i miei insegnamenti gli avrei fatto del danno, ma perché non mi viene ad accusare qui in tribunale? Nessuno? Nessuno è venuto? Ma diciamo che queste persone, poiché si tratta di loro stessi, abbiano del ritegno, ma nessuno ha un fratello, un padre che muore dalla voglia di vendicarsi di me? Nessuno? Ve li posso indicare alcuni, sono qui presenti. Critone, per esempio. Critone, alla mia stessa età e del mio stesso quartiere, il Licabetto, mi sente parlare da quando eravamo ragazzi. Ed è venuto qui, ha portato suo figlio, Critobulo, tanto ha paura che io corrompa i giovani. E c'è anche Risani a dispetto con suo figlio, Eschine. E c'è Nicostrato, il fratello di Teodoro, che è morto senza esigere delle vendette contro di me. E c'è Paralos, fratello di Teages. E c'è Adimanto, fratello di Platone, un ragazzo molto promettente che mi segue. Nessuno di questi mi accusa di volerlo corrompere. Meleto, perché non li hai citati come testimoni a favore della tua accusa? Te ne sei dimenticato? Ma puoi rimediare. Interrogali ora. Ti cedo il mio posto, guarda. Vieni qui, al posto mio. Non lo fai? E hai ragione, perché li troveresti pronti a difendere il loro corruttore. Cari amici, quello che io avevo pensato e avevo appuntato di dire a mia difesa, per giù l'ho detto, altro non dirò e non farò. E qualcuno adesso si adirerà, sì, soprattutto qualcuno, e sono tanti, che in processi anche meno rischiosi di questo si sono messi a piangere, a piangere, a supplicare i giudici, a mostrare i bambini piccoli e i parenti in lacrime. No, io non farò niente di tutto questo. Siatene delusi. Se qualcuno volesse adesso fare cose di questo genere e si volesse adirare per questo, perché non faccio cose di questo genere, se qualcuno minaccia di andare a votare in preda all'ira, io gli direi a questo qualcuno, io spero che non esista, ma se esistesse, io gli direi così: mio bravo uomo, ho qualche congiunto anch'io, non nacqui né da roccia né da quercia, come direbbe Omero, sono un uomo anch'io, ho una famiglia, tre figli, il primo più cresciutello, gli altri due piccolini, ma non li porto qui, non li espongo qui per farvi pietà, per cercare di essere assolto da voi per pietà. E perché non lo fai? Per superbia? Perché ci disprezzi? No, Socrate, non disprezza nessuno, sono qui a rispondere alle accuse di Meleto. per mostrare coraggio davanti alla morte. Beh, questo è un altro discorso. Ma per l'onore lo faccio. Per l'onore mio e vostro e della nostra città. Ma mi pare bello che un uomo della mia età, con il mio nome, meritato o no, qualcosa sarà pure dovuto, ma si metta a fare queste cose. Uno straniero potrebbe pensare che ad Atene proprio le persone che si distinguono per coraggio, per sapienza, anche quelli che vengono eletti nelle cariche pubbliche, non siano neanche uomini, ma donnacole. E se io mi mettessi a fare di quelle sceneggiate, strappalacrime, voi me lo dovreste impedire. Voi dovreste mostrare che condannate più severamente chi si abbandona a quelle scene. A quelle scene. Gettando nel ridicolo la nostra città. I giudici sono lì non per fare dei favori, ma per giudicare. Hanno giurato non di fare la grazia a chi gli pare, ma di esercitare la giustizia secondo la legge. E noi perciò non dobbiamo chiedere ai giudici di non rispettare il giuramento, perché se lo facessero non obbedirebbero agli dèi. E proprio io che sono accusato di non credere negli dèi, se con suppliche, con arti istrioniche, convincessi i giudici a non rispettare il giuramento, ma non sarei colpevole di invitarli a non obbedire agli dèi? Non dimostrerei di non credere agli dèi io, che credo come nessuno dei miei accusatori? No, anzi, io chiedo solo a voi e a Dio di essere giudicato come sarà meglio per me e per voi. Votanti, passò alla votazione sul quesito colpevole o innocente. I voti in favore della condanna di Socrate furono 280, i voti in favore della sua assoluzione furono 220. Cittadini di Atene, se io non mi sono indignato neanche tanto per questa vostra sentenza che mi condanna, una causa è anche che me lo aspettavo. Anzi, io sono rimasto meravigliato di quanti voti sono stati dati per la mia assoluzione. 220 su 500. Bastavano 30 voti perché io fossi assolto. 30 voti, cittadini, E quindi Meleto, io dalla tua accusa posso ritenermi assolto, perché voi in tre non avete raggiunto i 300 voti, 280, e nessuno di voi da solo ha quindi raggiunto i 100 voti, e avresti dovuto anche pagare l'ammenda di 1000 dracme per chi presenta al tribunale un'accusa che raccoglie meno di 100 voti. Questo è Meleto, è un uomo così ateniese, ha chiesto per me la pena di morte. E ora io, vuole la legge che, essendo stato giudicato colpevole, proponga un'altra pena alternativa. E che pena proporrò io per me? Una pena che io dovrei pensare di meritare o no? E che pena merito io? Quanti anni di carcere, quanti soldi? Che cosa ho fatto io? Io non ho avuto alcuna attività pubblica, altrimenti sarei morto e non avrei fatto nulla di utile né a me né a voi. Come privato, però, io ho agito per il vostro bene, cercando di convincervi a non pensare agli affari vostri prima che a voi stessi, e neanche agli affari della vostra città prima che alla vostra città. Ed io per questo dovrei avere una pena, ma io penso che dovrei avere piuttosto un premio. E non solo, ma aggiungo un premio degno del mio merito. Il merito di un uomo povero che si è sempre speso per voi e che chiede solo un po' di tempo e d'agio per richiamarvi alle esigenze della vostra anima. E quest'uomo, voi che premio credete che meriterebbe? Un premio degno di quest'uomo. Ma io penserei di essere ospitato nel Pritaneo a spese dello Stato. Certamente è più degno che ospitarci certi aurighi che con cocchi e quadrighe abbiano vinto premi alle Olimpiadi. Queste persone possono avervi regalato un istante, un'illusione di felicità. Io insegno com'è possibile essere felici. Sì, io ritengo di essere degno di questo, di essere ospitato nel Pritaneo a spese dello Stato. Tutti zitti, nessuno rumoreggia, niente schiamazzi. Voi credete forse che io stia facendo la mia solita ironia, come quando parlavo delle suppliche strappalacrime ai giudici, che sia un tratto del mio carattere impunito. No, non è questo, non è questo, cittadini, non è questo, è un'altra cosa. È che io sono convinto di non avere fatto mai di mia volontà almeno un torto a qualcuno. E se in questa città ci fosse una legge che vieta che si giunga a una sentenza di morte dopo un processo di un solo giorno, io potrei cercare di persuadervi di quello che ho detto. Ma in questo modo mi sembra molto difficile. Cari amici, io neppure però vorrei ammettere, chiedendo una pena, di meritarne una. Perché dovrei farlo? Per paura? Di che? Della pena che Meleto ha proposto per me e che io credo possa essere perfino un bene? Io, per evitare quella, dovrei chiedere per me una pena che so che è un male, il carcere. Perché dovrei vivere in una cella, guardato a vista per conto di quelli che mi hanno condannato? I soldi. Pagare una pena in soldi e restare in carcere fino a che non sia pagata. Ma io soldi non ne ho. L'esilio, eccolo là, è questo, lo so, che voi vorreste per me. L'esilio. Certo, io me ne vada. Ma voi credete che io abbia un tale attaccamento alla vita da illudermi che i miei ragionamenti, le mie reprimende che vi hanno reso molesto a voi fino a farmi condannare, invece in altre città sarebbero accolte di buon grado, che io sarei accolto bene, mantenuto con onore? E via, ateniesi, che bella vita sarebbe la mia, alla mia età, lontano da Atene, andarmene ranimbo. Dovunque andassi, i giovani verrebbero ad ascoltarmi. E se io non li accogliessi per paura delle conseguenze, Ecco che loro si arrabbierebbero, si offenderebbero e comincerebbero a brigare per farmi espellere. Se invece non li allontanassi, li accogliessi per emanciparli, ci penserebbero i loro genitori a farmi espellere come corruttore. Cari amici, ma neppure mi rassegno ad ammettere di meritare una pena, una qualche pena. Se avessi del denaro, una somma che potessi dare, io direi il pagamento di una somma, sì, non mi sembrerebbe neanche una pena, perché per me i soldi non hanno alcun valore. Ma purtroppo non ho soldi, a meno che io non possa pagare quel poco che ho che posso dare. E perciò mi condanno a pagare una mina d'argento. I miei amici mi propongono qualcosa. I miei amici, dico Platone, dico Critone e suo figlio Critobulo, mi propongono il pagamento di una somma di 30 mine, garantiscono loro. E sono persone tutte degne della massima fede. Io vi ringrazio e mi condanno al pagamento di 30.000. La votazione fece registrare una maggioranza di 360 voti per la pena di morte chiesta da Meleto. 140 voti risultarono in favore della piccola ammenda proposta da Socrate. Se avesse aspettato almeno un po', bastava poco, avreste evitato la cattiva fama, sono molti e pronti a censurarmi, di avere mandato a morte Socrate il sapiente, sì, che sapiente non sono, ma a loro lo direbbero per appesantire la loro accusa. Bastava aspettare poco tempo. Ho una certa età, la morte era vicina. Questo lo dico naturalmente non a tutti, ma solo a quelli che hanno votato per la mia morte. E a questi che hanno votato per la mia morte io vorrei dire anche un'altra cosa. Se voi avete creduto che io mi sia trovato a corto di quelle parole, di quegli argomenti che mi avrebbero potuto salvare, solo che io fossi stato disposto a fare di tutto per salvarmi. E invece no. Non mi sono mancate parole né argomenti, no, ma temerità e sfrontatezza. Non ho usato il linguaggio che qualcuno già pregustava. Udire Socrate che piatisce, piange, si raccomanda ai giudici, mostra i bambini piccoli. Non ho ritenuto, per difendermi dal pericolo, di avvilirmi col fare delle cose ridicole. Anzi, io sono fiero di essermi difeso come mi sono difeso. Ritengo molto preferibile morire, essendomi difeso come mi sono difeso, che dovere la vita a qualcuna di quelle scene vergognose, quelle scene abbiente. Sì, perché né in guerra né in tribunale io ritengo lecito, né a me né agli altri né a nessuno, di ricorrere a certi espedienti pur di salvarsi dalla morte. Nelle battaglie spesso è molto facile vedere come ci si potrebbe salvare. Basterebbe gettare le armi, buttarsi in ginocchio davanti ai nemici, supplicando. Quello che è difficile non è sottrarsi alla morte, ma all'abiezione. Perché l'abiezione corre molto più veloce della morte. E infatti io, che sono vecchio e tardo, sono stato raggiunto dall'inseguitrice più tarda, che è la morte. Mentre i miei accusatori, che sono giovani e lesti, ora sono preda dell'inseguitrice più veloce, che è l'abiezione. Sì, io mi partirò da qui, a Teresi, per andare a morire. Ma loro saranno condannati dalla verità. Sì, per la loro falsità e viltà, Ateniesi. E io voglio fare anche un vaticinio a queste persone che mi mandano a morte. Sì, un vaticinio, perché si dice che chi sente la morte vicina vede meglio nel futuro. Io vi dico che, poiché voi avete commesso questo delitto, perché io vi assillavo e non volevate rendere conto della vostra vita a me che vi assillavo, adesso voi renderete conto della vostra vita a molte altre persone che mi seguivano e perciò lasciavano a me l'iniziativa, non ve ne rendevate conto, e ora saranno tanto più molesti quanto più sono giovani e voi ci sformerete ancora di più. E non sarà bello né facile cercare di levarveli di torno. No, mentre è tanto bello e facile ascoltare chi vi corregge per il bene della vostra anima, approfittarne il più possibile. Ma basta con voi. Con voi invece che avete votato per la mia salvezza, io avrei il piacere di stare ancora un po' a parlare di questo mio caso, prima che gli addetti si facciano vivi, per portarmi in quel luogo dove una volta entrato io dovrò morire. Sì, ma se ci è permesso restare ancora un po' a discorrere insieme, io vorrei riferirvi di una cosa straordinaria, sì, che mi è capitata oggi. Sì, io sapete che ho sempre ascoltato l'assillo della voce di un Dio che è stato sempre molto assiduo nell'opporsi a me ogni qualvolta mi incamminavo verso qualcosa che per me fosse un male. E oggi che io avevo davanti questo processo, questa accusa, questa condanna che tutti giudicano male, io la voce di Dio non l'ho mai sentita nella mia coscienza, mai. Né questa mattina, mentre uscivo di casa, né mentre salivo verso il tribunale, e neanche durante tutta la mia difesa, in nessun punto, qualunque cosa io mi accingessi a dire e a fare, non ho mai sentito alcuna resistenza da parte del Dio. E questo che cosa significa? C'è il rischio che quello che mi capita oggi possa essere anche un bene, e che chi crede che la morte sia un male e la fugge non la pensi giusta? Che cosa è la morte in fondo? Delle due l'una: o è un non essere più nulla, e chi è morto non percepisce più nulla, oppure la morte è un cambiare dimora, come pensano molti, tra cui anche Pitagora, un migrare da questo corpo mortale verso un altro sito. Beh, parliamo prima della prima ipotesi, che la morte cioè sia uno spegnersi di tutti i sensi, come accade in un sonno profondo, così profondo che non si abbiano più neanche sogni. Anche in questo caso sarebbe una cosa straordinaria. Voi avete memoria di una simile notte, un sonno così profondo che non c'è più neanche l'ombra di un sogno? Se voi paragonaste questa notte con tutte le altre notti della vostra vita, quante ne trovereste più felici di quella? Io credo che nessun uomo, neanche il gran re dei persiani, ne conterebbe molte. E poi il tempo della morte sarebbe interamente contenuto nel sonno di quella notte. Ma passiamo a parlare dell'altra ipotesi, cioè che la morte sia un migrare dell'anima, così vuole Pitagora ma anche Omero, verso un luogo dove convengono tutti i morti di tutti i tempi, cioè l'Ade, dove noi avremo una gioia immensa, lasciati alle spalle i giudici che abbiamo conosciuto qui. Noi vedremo all'opera in quella regione i giudici che amministrano la giustizia in quella regione, e cioè Minos, suo fratello Radamanto, come leggiamo nell'Odissea, Triptolemo, che ben conosce chi è iniziato ai misteri di Eleusi. Che grande gioia sarebbe, amici, passare il proprio tempo con Orfeo, con Omero. Io vorrei morire non una ma mille volte. Potrei paragonare l'ingiustizia che io subisco qui, che grande consolazione sarebbe, con quella che subì Palamede, che Ulisse fece lapidare innocente, avendo messo nella sua tenda delle prove false di un suo tradimento, o quella che subì Aiace, che per il suo valore aveva ricevuto dagli altri Achei in eredità le armi di Achille, e Ulisse gliele fece togliere con un decreto ingiusto, e Aiace per l'offesa perse la ragione e si uccise. Che grande gioia sarebbe la mia se in quella regione io potessi interrogare, esaminare le anime di laggiù, così come ho fatto con voi, mettere alla prova la loro sapienza, vedere se lo sono davvero sapienti, o rivelare quando non lo fossero, fare un bell'esamino a quell'eroe che portò quel grande esercito a Troia. Chi voglio dire? Agamennone e anche Ulisse e Sisifo e tutti gli altri, e anche le donne. Che piacere sarebbe vivere con loro, conoscere i loro pensieri, e non c'è neanche il pericolo che si offendano e mi facciano condannare a morte. Tra l'altro sono anche immortali. Ma via. L'ultima domanda che vi faccio, amici, prima di andare, che voi vi ricordiate dei miei tre figli. Quando io me ne sarò andato e quando saranno grandi, se voi vedrete che vanno dietro ai soldi, ad altre cose, e trascurano la loro anima, voi stuzzicateli, punzecchiateli, come ho fatto io con voi. Siate liberi di dare loro quell'assillo che io ho dato a voi, se qualcuno me ne può essere grato, e se si daranno aria di essere sapienti, i figli di Socrate, e non lo saranno, voi svergognateli, così come ho fatto io con voi. Se voi farete questo a quei miei ragazzi, io riterrò di avere ricevuto il giusto da voi, e vi ringrazio fin da ora a nome di quei miei figlioli. Ma mi chiamano. È l'ora di andare. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi va a star meglio? Nessuno lo sa. Tranne il Dio.